sé yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Oggi ho pensato di andare incontro alle esigenze e al piacere del mio pubblico. Siccome spessissimo io lancio temi fantastici, meravigliosi, iperbolici, come le fughe domestiche, l'amore, la passione, la leggerezza, e mi telefonate voi, appassionati e fedeli ascoltatori, e sempre: ho 60 anni ormai per me nella mia vita, ho 50 anni, ho dimenticato questa cosa, ho 45 anni, non parlo per me perché ormai sono felicemente... Ecco, visto che vi siete collocati, congelati, sclerotizzati in una condizione dell'essere che ormai non ha più speranza, che vi... costringe, non dico in generale, ma coloro che sempre con la mestizia rispondono con il senso dell'abbandono, della rinuncia, dell'ormai tanto a ogni mia sollecitazione vitale, visto che ormai vi siete, dicevo, congelati in questa condizione di osservatore dell'umanità, mesti testimoni del mondo che sta mutando e sul quale voi nulla più potete, io vi dedico questa mattina per riconoscere in voi e anche in me, perché li sento ormai implacabili, inesorabili, i sintomi dell'umerità. Realizzazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che siamo tutti degli umarels. Cosa vuol dire degli umarels? Vuol dire che siamo degli ometti, degli omini, sia che apparteniamo al genere maschile o al genere femminile. L'umarel in generale è una categoria dell'essere. È stato coniato da un geniale osservatore dell'umanità, un individuatore di transumanze senili attraverso le nostre città. Le nostre città sembrano che ormai non ci sia più spazi per gli anziani, se non in alcune riserve, nei giardinetti, nelle panchine dei centri commerciali l'estate quando c'è l'aria condizionata. Ma invece non è esattamente così. Sono sparpagliati dappertutto. Tutto, hanno un'età variabile, potrebbero avere anche 20 anni, però è il loro punto di osservazione della realtà. Se ne stanno lì con le braccia conserte dietro la schiena, guardano, osservano, danno consigli, ma soprattutto rimbrottano il mondo sul fatto che non c'è più educazione, che non c'è più osservanza delle vecchie regole, che nessuno fa più le cose come dovrebbero fare, che il mondo va a rovescio. Ho sentito frasi umarelliche pronunciate da quarantenni che guardano una buca sul pavimento dell'asfalto e dicono: guarda qui che nessuno provvede, o guarda una macchina parcheggiata sulle strisce, cosa orrenda, e dicono: non c'è più educazione. Oppure sentono, che ne so, dire delle parole lievemente offensive rispetto al decoro e il buonsenso comune, una volta non si dicevano queste cose, una volta le donne non fumavano per strada, una volta le donne non andavano in giro con le cosce di fuori. Insomma, tutti coloro che appartengono al regno di una volta, tutti coloro che danno consigli, tutti coloro che sono saggi, tutti coloro che la mattina ce l'hanno con il traffico, ce l'hanno con la gente, ce l'hanno con le cose che non funzionano, sono degli umarels. Questa mattina definiremo il termine umarels e guarderemo coscientemente quanto noi intrisi siamo di umarellaggine nella nostra più intima ragione. Anche se possono dormire fino a tardi, gli umarels si svegliano presto, fanno una colazione abbondante, si vestono e escono. Nessuno sa per quale inspiegabile motivo si comportino così. Si sa solo che gli umarels hanno bisogno di vivere la mattinata nella sua totalità, riempiendola di azioni a volte insensate, a volte no. Hai un fatto da fastidi, un qualche posto. Primo sintomo: l'umarels si alza la mattina molto presto, anche se non ha nulla da fare, e comincia a scemare come se fosse una mesta transumanza attraverso le città, non avendo nulla da fare. Si guarda intorno, si guarda in giro, osserva gli altri. 800 24 00 24. Anche se voi non siete pensionati, anche se voi non avete l'età per essere fisiologicamente al colpo d'occhio degli umarels, quanto siete umarelle nel vostro intimo, quanto avete rinnegato la primavera, quanto nei vostri abiti marroncini, nelle vostre giacche larghe, nelle vostre scarpe scalcagnate, nei vostri capelli mal curati, nella vostra acqua di colonia da poco prezzo, siete intimamente umarels. Il buongiorno ci vede in prima mattina. Amano trascorrere le loro ore a zonzo per la città, mani rigorosamente dietro la schiena, nella loro tipica postura. Gli umarels passeggiano osservando il mondo che cambia, sentenziano e criticano. Il punk best bisognerebbe... Per il punk best bisognerebbe andare a ammassare di poveretti, così stanno, soffrono meno i cani. Sì, è loro, perché, esatto. Ma però quegli altri, tutti i movimenti sono utili, tutti i movimenti sono utili. Vicino porzellane. Babbo, che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche. Colti dal repertorio di Danilo Maso Masotti, che è l'osservatore degli Umarels, che tra poco sentiremo la sua viva voce, nei loro discorsi che tendono a codificare la realtà in un mondo che ormai non appartiene più ai loro codici, ai loro sistemi di osservazione, un mondo che va a scatafascio, ma lo scatafascio del mondo si vede sempre da piccoli sintomi, come gli animali abbandonati, i cani randagi, forse sarebbe meglio che qualcuno li prendesse e li sopprimesse, così almeno non soffrono. Il cane è un animale paziente, è un compagno fedele che accompagna gli Umarels nella loro giornata in giro per la città. Agli Umarels piace sapere cosa succede nella propria città e nel mondo, e tutti i giorni si informano all'aria aperta. Dell'Umarel ci sono varie tipologie e questa mattina cercheremo di classificarle, di elencarle, come se fossimo degli antropologi che stanno osservando una civiltà scomparsa, quando in realtà noi scompariremo. Noi scompariremo quando il fenomeno di umarellizzazione ci colpirà. Io questa mattina ho addosso una giacchettina verde militare che non mettevo da tanti anni. La usavo di solito quando andavo in montagna, ma essendo terremotata la mia casa in montagna, non avendo avuto modo a distanza di un anno ancora di metterci mano, perché il mondo, la popolazione deve aspettare gli aiuti pubblici, quindi non me la posso mettere a posto con le mie sole risorse, questa mattina me l'ero messa per uscire, perché un po' c'era la primavera, un po' non avevo ancora fatto il cambio degli armadi, quindi sono vestito da perfetto Umarel. Ho una giacca slargata, scalcagnata, bruttarella, verde militare, che è perfetta, è mimetica, si confonde nei giardinetti, potrei appostarmi ai giardinetti e guardare quelli che buttano le cartacce fuori dai cestini e quindi rimbrottarli. Danilo Maso Masotti, buongiorno. Buongiorno. Questa mattina mi sarai testimone della mia umarellizzazione, questa mattina ci aiuterai a individuare questa categoria di esseri umani che tu studi da lunghi anni a Bologna. Hai pubblicato due libri, Umarels, edizioni Pendragon. Anche l'editore è Umarel nella sua definizione, poi il Codice Bologna, guida ai luoghi, fatti e persone di una metropoli di provincia, sempre edizioni Pendragon. Come hai cominciato ad osservare gli Umarel? Allora, ho cominciato a osservarli praticamente andando in giro per Bologna. Una mattina ho avuto un'illuminazione, praticamente ero alla COP in orario dove tutte le persone sono di solito a lavorare, e io ero a fare la spesa la mattina e alla fine mi sono reso conto che ero tipo all'interno di un enorme videogioco, erano tutti Umarels, il più giovane ero io, un 40 anni, che ero poi un Umarel anch'io, ero qua a fare la spesa. Allora ho cominciato ad osservarli e mi sono reso conto che erano dappertutto. Allora ho cominciato a fotografarli, a immortalarli con la macchina fotografica digitale, li ho segnalati, ho creato un blog che si chiamava Umarels, appunto, sono tanti, vivono in mezzo a noi, ci osservano e noi osserviamo loro. Ho cominciato a catalogarli e ho cominciato a dire alle persone che leggevano il blog: guardate, questi sono gli Umarels, li avete presenti? Ovviamente tutti li avevano, era una cosa che era sotto gli occhi di tutti. Ho detto: mandatemi delle foto e li catalogheremo. Ormai sono quasi a... Quindi una delle caratteristiche degli Umarels è la loro trasparenza. Finché non li categorizziamo, non individuiamo la categoria, è come se fossero trasparenti, non li vediamo. Servono degli occhiali a raggi X per rendersi conto che essi esistono. Sì, sì, gli Umarels sono in mezzo a noi, però uno non li nota, se uno non ci fa caso. Cioè, prima che Masotti dicesse: guarda, questi sono gli Umarels, nessuno li aveva notati. Invece adesso tutti quelli che hanno seguito il mio blog, che hanno notato gli Umarels, adesso li vedono dappertutto. Io ne sono testimone, perché un anno fa avevo intravisto il blog di Masotti e avevo capito che esistevano questi Umarel, ma me ne ero reso conto. Mi trovavo in montagna, a un certo punto capitai davanti a una chiesa in cui stanno facendo gli scavi archeologici. Gli esperti venuti da grandi città del mondo con grande perizia avevano messo, riportato alla luce lo scheletro di un monaco del 1200 che era lì seppellito, e stavano con grande attenzione, con grande cura, con i loro strumenti, cercando di pulire pian piano quello scheletro per tirarlo fuori nella maniera migliore. Un lavoro di estrema raffinatezza e di estrema perizia professionale. Erano circondati da alcuni Umarels locali, che nella vita avevano fatto, che ne so, uno avrà fatto il pastore, uno avrà fatto il venditore di mortadelle, l'altro avrà fatto il negoziante di scope di saggina. Erano lì con le braccia dietro la schiena che guardavano e avevano da dire anche su questo. Non si fa, è per vedere l'età bisogna guardare. Uno disse addirittura: guardate se c'ha una moneta in bocca, se c'ha la moneta in bocca vedete quando è, da quando va datato questo scherzo. Li fotografai e li mandai a Masotti e capì che in realtà l'umarellaggine andava oltre ogni nostro immaginario. Senti Danilo, una cosa sola bisogna dire in partenza. Tu li hai osservati a Bologna, città tipo, ma il fenomeno degli umarelli è sparpagliato a tutte le latitudini, non solo del nostro paese. È mondiale perché mi stanno arrivando anche fotografie di persone che sono state, che ne so, in Australia, in Cina, e quindi mi mandano delle foto di umarels che poi fanno le stesse cose. Tengono le mani dietro la schiena anche in Cina? Sì, mani dietro la schiena, sì, in tre tipiche posture che ho studiato. Diciamole tutte e tre così perfettamente possiamo dire. Mani dietro la schiena è il primo luogo fisico, la prima postura dell'umarel, poi? Sì, sono tre tipologie di prese, capito? Ce n'è una dove tiene la mano, le mani sono incrociate. L'altra dove ci sono una mano che incrocia il polso, sì, e l'altra è una mano che tiene stretto uno o più dita. Ecco, queste sono le tre macro posture delle mani dietro la schiena. Molte qualcosa persone, sull'abbigliamento puoi dire degli umarelli estivo, invernale? L'abbigliamento è quello che capita, un po' come hai descritto tu prima, che detto, oggi sono vestito da umarels, quindi cioè non c'è una cura dell'estetica, ci sono questi colorini grigini, verdolini, quando fa un po' freddo c'è questo giubbottino trapuntino, non so se hai presente. Sì, sì. Quello così. Il trapuntino, quello che una volta si usava per andare a cavallo, poi c'è stato un periodo fighetto negli anni 80 che si metteva sopra la giacca, adesso è diventato, siccome ne fanno delle imitazioni da poco prezzo, vestito tipo dell'umarel. L'estate immagino il tipico giubbottino senza maniche con le tasche da pescatore. Esatto, infatti sono questi look comunque militareschi da pescatore, e poi hanno fatto comparsa da qualche anno comunque le scarpe da ginnastica, che fino a un po' di tempo fa erano bannate dall'estetica umarellica, invece adesso la scarpa da ginnastica comincia a prendere piede. Sì, prima c'era naturalmente la tipica polacchina felpata, estate inverno era sempre quella, a volte i sandali con i calzini. Sempre quella, infatti poi c'è gli umarels, gli umarels praticamente sono la gioia dei calzolai, cioè quando gli umarels poi non si aggiustano da soli le scarpe. Comunque una scarpa di un umarel, ecco, dura per sempre, tipo un diamante, non si butta mai via. 800 24 00 24, quanto temete di entrare anche voi nel circolo degli umarel? Quanto vi manca per diventare umarel? Quali sono i sintomi dell'umarellaggine che vi guardate addosso? Fate ancora in tempo a rimediare. Fabio, buongiorno. Buongiorno, chiamo da Bologna, ho 39 anni. Umarella 39 io anni? Penso di sì per un aspetto. Io protesto vivamente, lo dico a tutti, sui cartoni animati di oggi, che sono pieni di volgarità. È vero, e fanno tanto male ai ragazzi. Guardi, io sono un padre, non ce n'è uno che non abbia un rutto o una scoreggia. Ma pensi un po', che cosa terribile. Pensi ai bei tempi in cui c'era Topolino. Eccoli, quindi vado con nostalgia rimembrando i cartoni animati di Tom e Jerry, di Topolino, Braccia di Ferro. Poi altre cose che non vanno come lei vorrebbe? Ma diciamole tutte. Ma ce ne sono altre, però direi che per rientrare nella categoria degli umarel questa è la più eclatante. Le altre sull'andazzo in generale dell'educazione dicono un sacco di parolacce per strada, ad esempio. Quello sì. È vero, sì. Poi buttano i sacchetti e la spazzatura fuori del cassonetto. Pensi un po'. Ma qui a Bologna non tanto. Questo non tanto. Qui a Roma lo fanno, pensi un po'. Lei pensi comunque che, dunque, io stavo l'altro giorno con i miei figli rompendo gli scatoloni, ma tanto così, proprio perché non c'avevo niente da fare, e li mettevo dentro l'apposito cassonetto della carta differenziata. È arrivata una coppia di umarel romani e sentivo che parlottavano e mi indicavano. Io gli ho detto, con i ragazzi perplessi, come: scusate, ce l'avete con me? No, stavo dicendo a mia moglie, guardate che esempio di padre che spiega ai figli come mettere la carta nel cassetto differenziato. A me è venuto da ridere, perché lo facevo tanto, perché ci dava gusto prendere a calcio lo scatolone, non ce ne poteva fregare di meno. Però ho fatto il bravo, cioè sì, voglio che i figli crescano con questo senso civico. Poi mi è venuto da ridere quando gli umarelli si sono allontanati, proprio per fare qualcosa di contrario l'abbiamo buttato dentro il cassonetto del vetro, naturalmente. Non potevo dare ai miei figli questa terribile onta di un padre già umarellizzato. Grazie Fabio. William. William, eccomi qua. Umarella anche lei? Beh, io vorrei ho telefonato per dire che forse io sono un anti-umarella. Vediamo un po'. Perché, quanti diciamo, anni ha? Io ho 44. Come si veste? No, devi dire come è vestito oggi. Allora, io come sono vestito oggi? Sì. Un paio di jeans, un po' stracciati, un po' alla moda, va bene, le scarpe da ginnastica. Però guardi, mettere jeans stracciati alla moda a 47 anni, già 44. È un segno... 44, lo stesso, è umarellaggine. Non si sì. mette il jeans stracciato a 44 anni. Ecco, perché diventa allora, il jeans liso dell'umarell, che ci va a fare i lavori di bricolage e quindi si corrompe. Poi... Ecco bene, no, io l'unica cosa è non sono d'accordo con gli umarell perché penso che questo mondo ci deve dare ancora tanto, ci può dare ancora molto e sono ottimista perché vedo cioè, le volgarità che magari si raccontano, che si vedono anche nei cartelloni così, io non le vedo perché siamo al passo con i tempi e magari la televisione sì, alle volte è un po' trash, quindi è un po' qualcosa... trash. Ecco, quello c'è, ma del resto io vedo ancora tanto, cioè secondo me abbiamo ancora tanto da dare. E il mondo è ancora bello. Bene, questa definizione di ottimismo potrebbe essere una tipica frase da Moirel che pronunciano magari seduti davanti al campo da bocce. Masotti, su questi due casi, vedi dei sintomi irreversibili di condanna all'umarellaggine? Allora, il primo caso era Moirel. Totalmente. Era Moirel totalmente. A 39 perché... anni, Sì, perché cioè, poi, come io spiego, cioè, Moirel non adesso io nelle mie foto... faccio vedere un umarell anziano, però non dobbiamo guardare solo l'anziano, è l'umarell di 39 anni, dice ma una volta quando guardavo i cartoni animati io Asra Goldrick era meglio, Atom e Jerry, così, quindi quello è un umarell moderno. L'altro invece con i pantaloni stracciati è un caso di adulto adolescente, che sono insomma quelli un po' più pericolosi. Ecco. Ma diciamo che è un passaggio intermedio, perché... Quando comincia a avere 50 anni, quei jeans stracciati saranno i jeans con cui va a fare i lavori di bricolage, aggiusta il tetto, aggiusta le sedie. Questo qua praticamente, cioè quando sarà umarell, anagraficamente umarell, ecco, l'estetica sarà quella e il Masotti del futuro fotograferà questo qua. Hai notato evoluzioni nell'aspetto esteriore degli umarell in questi ultimi 4-5 anni? Ultimamente, cioè, praticamente venendo a mancare gli umarels, perché insomma si esauriscono, stanno arrivando le nuove contaminazioni che siamo diciamo un po' più appunto le definirei più paninaretti, insomma sono più elegantini. Anche perché nell'armadio c'hanno i vecchi abiti che erano degli anni 80, che in teoria oggi vengono riproposti come elemento vintage. Quindi l'umarell in teoria mette vestiti smessi di 20 anni fa e equivalgono ai vestiti nuovi che comprano nelle ginserie di Via del Corso i suoi nipotini, quindi comincia a esserci un'omologazione. Esatto, si sta avvenendo proprio questo, quindi insomma c'è una moda diciamo di una ventina di anni fa, mentre prima si vedevano dei capi d'abbigliamento diciamo primi anni 70, se non prima, adesso insomma ecco la differenza. Sono tornati gli anni 80. Scusa ecco. Se ti precorro nell'analisi, è se voi prendete la camicia a scacchi con il collo lungo dell'umarelle, quella del nipote, che possono sembrare uguali perché magari la moda ripropone stesse cose, bisogna annusarle. Quella dell'umarelle sa quell'odorino di naftalina, un po' di muffettina e si capisce che non appartiene comunque a qualcosa di nuovo, o sbaglio? No, giusto. Poi preconizzo, insomma, tra qualche anno diciamo che arriverà tra gli umarelle la moda grunge, ecco. Ecco sì, quando i grunge avranno 55-60 anni, l'umarell sarà grunge. Melog 2.0. Gli umarells sono monogami e fedeli. Una volta trovata la donna, la staura della loro vita, non la lasciano scappare. Sono felice che ho preso una brava moglie polacca. Sono stato 30 anni prima. Avevo preso una bella zuccata. Sì. E adesso, se c'è Gesù Cristo, io non sono contento. Almeno mi ha dato questa cosa prima di morire, da 3 anni che sono sposato. 800240024, stiamo osservando un'umanità che probabilmente era trasparente prima che Danilo Maso Masotti la classificasse e individuasse la genia apparentemente invisibile degli umarels. Sentite, si sta arrocchendo la voce, mi sto umarellizzando. Io stesso, che sono nell'età canonica per essere un umarel, mi rendo conto, non avevo mai osservato con sufficiente attenzione questa umanità che in fondo ci sovrasta, ci osserva, ci guarda, ci giudica, ci fa sentire quella sorta di mannaia sempre pronta a scattare sul nostro collo per nostri comportamenti non urbani. Danilo Maso Masotti, autore e scrittore, identificatore, classificatore e grande esegeta dell'umarellaggine. Tu hai toccato un punto molto delicato, l'aspetto sentimentale, erotico, sessuale degli umarel. L'umarel è fondamentalmente monogamo, a parte che con il cane si vede sempre con la sua donna per strada. Però un fenomeno recente degli ultimi anni, che la transumanza verso le nostre latitudini di badanti rumene, bielorusse e di varie nazionalità, soprattutto spregiudicate, non legate a schemi così rigidi come quella della monogamia, ha anche cambiato l'universo degli umarel. Sì, sì, lo ha cambiato tantissimo, perché capita sempre più spesso che causa l'invecchiamento della popolazione, la possibilità di vivere più a lungo, gli umarel scampano più a lungo e, ahimè, magari si ammalano. I figli non si vogliono prendere cura degli umarel e allora chiamano queste badanti che gli danno le loro cure e molte volte scappano con tutto il patrimonio. Tu hai osservato gli umarel che cambiano radicalmente la loro vita, proprio perché per la prima volta innamorati, conoscono qualcosa nella vita che non hanno mai conosciuto, la passione carnale, perché penso che le mogli degli umarel siano molto avare di passionalità, si sformano precocemente, si vestono da uomo. Vedere un umarel con la moglie per strada, da dietro non si capisce bene quale sia il maschio e sia la femmina, diciamo la verità. Sì, sì, è vero, perché c'è anche una umarellizzazione della donna. Sì, mettono quei pantaloni da maschio bruttissimi, scarpe basse, giacconi, diventano dei cilindri monoformi praticamente. Sì, diventano dei cilindri. Invece, l'umarel in queste bellezze che arrivano di solito comunque dall'est, tornano giovani, quindi diventano delle bellezze dei loro tempi. Sì, perché l'umarel è passato radicalmente dall'esperienza del casino, di cui ha lambito proprio gli ultimi sprazzi, alla monogamia assoluta degli anni 60, del monocolore democristiano, o anche in una città come Bologna, di questo rigore tipico del laicismo, che poi si arrabbiano con il sindaco soltanto perché ha delle storie extraconiugali, capito? Che alla fine è la stessa cosa. Sì, infatti con questo L'umarel è un grande moralista. L'umarel è un grande moralista e l'umarel fa spesso il busone con il culo degli altri. Sì, è una frase tipica, già ecco. Ormai entrata nei noveri, capito? Sì, sì, sì. E, no, l'umarel comunque è monogamo, però con gli amici, magari quando si trova in piazza o nei bar o alla bocciofi. Fa commenti salaci sulle ragazze che passano. Sì, no, oppure racconta di avventure. Mai vissute, naturalmente. Mai vissute, ecco. Solo immaginate. Sentiamo Giuditta, buongiorno. Buongiorno. Ascolti, l'impressione che mi ha fatto questa trasmissione fino adesso, non so se quella voluta, è proprio una grande tristezza, un grande senso di compassione. Lo so, ma la vita è fatta di cose tristi. Lei è una moglie di umarel, signora? No, io non so, poi non credo neanche che sia una questione di età, ecco, io ho insegnato per tanto tempo di persone così che un po' squallide, che però dopo fanno anche tenerezza, ce ne sono a tutte le età, ci sono da bambini fino a... Quindi lei cos'è, una croce rossina di umarel? No, non sono una croce rossina. Prima mi sono chiesta se anch'io sono un umarel, perché forse anche le donne lo possono essere. Dipende, guarda, le posso fare un piccolo test assieme a Masotti. Mette pantaloni sformati, praticamente dei cilindri uguali della vita. No, io sono vanitosa. Mette scarpe basse da ginnastica? No, io sono piuttosto vanitosa, non eccessivamente, però... Insomma, mette dei cappelli di lana orrendi anche a primavera? Mi piacciono quelli di Panama. Beh, vedi, allora non è umarel. Masotti, cosa dici? La signora è vicina all'essere umarello o no? Ma sì, poi la signora è un tipico esempio di negazionista. Quindi spiega meglio. Nel senso che lei nega l'umarellismo, comunque, queste cose, ad esempio dice fa cosa le piace, fa io non sono umarel, così poi fa cosa le piace, il cappello di Panama, che insomma, cioè, sembra molto eleganza umarellica. Vede signora, mi dispiace doverlo dire, Giuditta, ma ha già un piede nella fossa. Tagliando quel signore lì, perché mi sembra che abbia dato anche un taglio così superficiale a tutta la sua... Però vede, la sua pietà per l'umarella, il suo senso di compassione in realtà un po' tradisce la sua vocazione. Lei praticamente è una sorta di quinta colonna degli umarelle nel mondo degli umani, che cerca di portarci anche noi levemente, con un maniera dolce. Lei praticamente è una psicopompa dell'umarellaggine, lei ci porta lentamente per mano verso il mondo degli umarelle, come quelle sorte di... No, secondo me ci si va senza che nessuno prenda per mano o che nessuno ci trasporti. E lei ci sta dando una fatale condanna, però. Perché si è così, ma insomma, per tutta quell'umanità che fa tenerezza. A me è venuto il magone, mi è venuto in mente una frase di Salinger, non so se lei ha letto. Sì, mi tengo le mani sotto la scrivania. Dica. Non ho capito se li ha letti, Franny e Zui, no? No, non l'ho letto, mi sfugge. Erano bimbi prodigio, quindi saranno stati anche vecchietti prodigio, sì. E facevano le trasmissioni radiofoniche negli anni 30, viene raccontata questa storia, e a un certo punto uno chiede all'altro, erano fratelli, ma perché tu lo fai questa trasmissione? E lui dice, io penso che c'è una signora grassa con il cancro che mi ascolta da qualche parte. Ecco, quello che volevo evitare che lei dicesse, signora, l'ha detto. Va bene, buona giornata, Giuditta. Allegria, Giampaolo. Eccolo. Sì. Io volevo essere sottoposta a un test di umarellaggine, perché essendo 65enne ancora ambisco un posto di lavoro e vorrei capire se per mia natura potrei essere assunto da qualcuno. Come passa le giornate? Come passa le giornate, Giampaolo? Sono in pensione da poco tempo. Un po' faccio l'umarell, vivo in un paese, quindi scendo in paese, alla piazza del paese, prendo il caffè, il giornale. Quando cammina anche... dove tiene le mani? Sempre davanti o in tasca. Ancora sta resistendo. Come veste? Beh, devo dire che sono un po' vittima dei miei anni ruggenti del 68, quindi mocassini, pantaloni di velluto. Masotti, cosa ne dici? Vabbè. Continua te l'interrogatorio, che io veramente ho qui un groppo alla gola. Sì. No, l'estetica del signore è più da Geronto Zanaro, che praticamente è una nuova tipologia di umarell, ma il signore voleva un test. Quindi non so, io magari qualche domanda per capire. Prego. L'umarellismo è questo, tipo, non so, ma lei è molto interessato a osservare i lavori stradali, quanto tempo si ferma a guardarli? No, questo ancora mi manca. Posso dire che per esempio per quanto riguarda le badanti, che penso sia la mia fine, la badante, mi è venuto in mente di fare un bando per badanti, in modo da avere una selezione in epoche di attività ancora cerebrale e non trovarmi appioppato una badante qualsiasi. Ah, se la vuole scegliere adesso, come quelli che scomprano la bara e la mettono sotto il letto praticamente. Praticamente sì. Ecco, poi non è la stessa cosa, però va bene. Però questo, scusami Masotti, è un guizzo di lucidità o sbaglio? Cercarsi la badante finché ancora uno può sceglierla? Ma questo è un nuovo aspetto che io non ho ancora analizzato. Io di solito vedo delle badanti subite. Sì, perché li appiccicano naturalmente quelle che costano meno, che sono quelle un pochino più avanti. Sì. Abituate, non so, alla gestione degli animali. Tu sai che il termine badanti nell'enciclopedia, nel vocabolario della Crusca, era riferito fino a 10 anni fa al badante di animali. Poi noi l'abbiamo mutato, è diventata badante di esseri umani. Ma come vedi la radice è quella. Viene considerato qualcuno a cui viene affidato una sorta di gregge di esseri senza più volontà e autonomia. È molto triste. Anna, buongiorno. Buongiorno. Sto aspettando la sua testimonianza. Ecco, ero curiosa di sapere se c'è un equivalente donna di questo tipo di umarell. Masotti. Sì, cioè l'equivalente donna che è definito in sdaura. E, di solito la sdaura sta comunque in casa. Cioè, mentre l'umarell è animale urbano a sdonzo per la città, la sdaura è a casa. E, quindi l'umarell sta fuori, critica il mondo, poi torna a casa e tra le mura domestiche viene criticato dalla sdaura. Che mangeranno verso mezzogiorno, 11:30, qualcosa del genere. Sì, ora sempre molto presto. E infatti a quest'ora la Sdaura che mi ascolta sta già mettendo il soffritto. Non intendevo Sdaura, intendevo Dunenna. Cioè, Dunella mi sembra un po' dispregiativo. Intendevo Dunenna. Spieghi non bene, Sdaura. Signora, perché vi state addentrando in un universo lessicale che mi sfugge. Diverso locale. È diverso Sdaura. La Sdaura ho l'impressione che stia quasi scomparendo. E subentra la Dunenna. E cosa fa la Dunenna diversamente alla Sdaura? Ma la Dunenna, è proprio come tipologia, potrebbe andare dai 65, 70, 75, permanentina corta, capelli tinti, ben tenuta. Con quel colore azzurrino che va tanto bene. No, quasi colore... direi dalla carotina al melanzana. Sì, ecco. Poi si arriva al nero totale. Sono i viraggi del rosso menopausa che si fa normalmente. Comunque, io viaggio molto in autobus e soprattutto alle fermate. Ma vedo che lei è una grande esperta comunque, lei simulava incompetenza, ne sa più di Vasotti praticamente. No, perché anche in autobus, siccome è un tragitto abbastanza lungo per arrivare in centro, e mi diverto a osservare un po' i tipi delle persone che ho vicino, per cui noto queste cose, a volte ci sono degli eccessi. Le posso chiedere una cosa, signora? C'è Andrea che mi scrive su Facebook e fa una sua definizione dell'umarel femmina, vediamo se corrisponde. Dice: l'umarel femmina si lava poco, ha i denti pieni di tartaro, non si pettina, porta vestitazzi grigi a quadretti e bada sempre ai fatti altrui, è vero? No, secondo me la Dunenna, la chiamo così, è proprio il contrario, molto ben tenuta, sempre, diciamo, quasi spesso fresca di parrucchiera, oppure sia concia lei in casa. Se lo fa in casa, venga in casa la parrucchiera. Con un po' di rossettino, orecchini abbastanza vistosi, anche con un po' di tacco, gonne strettine, questa per me è la classe simpatica proprio, con molta voglia di chiacchierare. Secondo me questo è proprio il tipo di Dunenna, ma non di Sdaura, che è diversa, perché io ho 73 anni, cucino molto, faccio la sfoglia. E lei come si classifica, signora? Come si classifica lei? Una Dunenna? Dunenna no. E cosa? Dunenna no, perché non sono ricercata nel vestire, insomma, non sono appariscente. Non saprei un... Io devo lasciare, guardi, devo tagliare perché siamo già oltre il limite. Melog 2.0. Io mi chiamo Carlo Alberto, sono da La Spezia, sono single, le donne mi piacciono moltissimo, le rispetto. Ai miei tempi mi chiamavano, come io amo la Versilia, mi chiamavano il playboy della Versilia, perché le donne... Che c'è, Rosetta, che te lo guardi tutto? Ma è vero che è bello. Grazie. È bello, caspita. Una donna, quello che chiedo, teatro, cinema, piano bar. Sì, cioè... è la mia anima gemella, scusatemi, è più forte di me. Fino a che non accadde qualcosa che sconvolse tutte le teorie, probabilmente anche quelle di Masotti, del mondo degli Umarell. Uomini e donne over 60, la nuova versione del format di Maria De Filippi, quello con il tronista, con le ragazzine, con le lunghe chiacchiere, con le esterne che si parlava, non c'era niente, ha virato quest'anno con un colpo geniale di recupero del pubblico medio, la TV generalista, sui vecchietti. L'esplosione del centro anziani in televisione ha determinato qualcosa che forse non immaginavamo. Signore e signore, oltre i 70 anni, assatanati come mandrilli, saltano uno sull'altro, si baciano, si mettono le mani addosso, si zompano addosso, parlano di cose indecenti con una libertà, con una leggerezza di cui nemmeno noi ai tempi dell'elementare eravamo capaci. Masotti, come ti spieghi allora questa nuova esposizione Lumarel che si scatena, diventa libertino, improvvisamente scopre delle cose che ha sempre nascosto lungo le meste vie delle nostre città? Ma sai, la De Filippi va in onda in orari umarellici e siccome lei è una volpe, ha voluto tirare fuori, secondo me, dal suo cilindro questo, questa cosa spettacolare, questa cosa, ecco, che era invisibile anche questa, degli Umarels ingrifati, delle Sdaure ingrifate. Ma ingrifati in una maniera che non c'è limite. Ho visto l'altro giorno uno che prende una signora, la stende su un divano, le salta addosso, gli infila la lingua in bocca, gli infila le mani sotto la gonna, e questa è impazzita. E l'altra vecchietta, Rosetta, quella più vecchia di tutte, che guarda con degli occhiali da sirena, gli chiede proprio informazioni dettagliate sulle dimensioni dell'innominabile oggetto Marelli che lui ha sempre tenuto celato dentro i pantaloni di velluto. Ma sai, nel mio libro ci ho appena accennato un capitolo, Umarels Entertainment, che parla di questo fenomeno, di queste balere pomeridiane, che sono un po' come quando da ragazzini si andava in discoteca il pomeriggio, e quindi succedono delle cose analoghe. Riscopre la carne l'Umarel, quindi. L'Umarel riscopre la carne, e la De Filippi evidentemente ne sa più di me di queste cose, e ha reso popolare questa cosa. Vedi che prima una signora ha telefonato e ha detto: ah no, voi mi mettete una gran tristezza. Invece questa signora magari dice: invece la De Filippi no, la De Filippi mi mette una gran allegria, ecco, quindi forse noi stiamo sbagliando, questa è la De Filippi. Sì, è il termine vero del rimbambinimento, il vecchio rimbambinito, si vestono con vestiti settecenteschi, fanno delle cose che nessuno fa mai nella vita, a meno che negli anni felici della goliardia, del liceo, della spensieratezza, e loro le riscoprono, hanno un luogo di rappresentazione, questa loro nuova vitalità. Silvia. Buongiorno, pronta? Sì, sto ascoltando. Ecco, buongiorno. Io ho letto il libro di Naso perché una nostra comune amica ce l'ha regalato e non ho fatto altro che regalarlo a destra manca. È giusto, si fa documentare l'umanità sull'umarellaggine. Sì, perché è una cosa meravigliosa. E la cosa curiosa è che mio figlio, che ha 15 mesi, ha proprio il fisico da Umarel, e io e mio marito ci divertiamo a fotografarlo nelle classiche posture da Umarel, perché ha imparato a camminare da un paio di mesi. E lo vestite anche da Umarel? No, proprio vestito da Umarel no, perché purtroppo non è l'abbigliamento per bambini ancora proprio non è attrezzato al riguardo. Però sì, ha il cappellino tipico di lana, la calotta di lana ce l'ha quella. Cammina con le braccia dietro la schiena. Esatto, cammina con le braccia dietro la schiena ed ha una passione per tutto quello che toglie lavori in corso, si ferma ed è molto curioso ed ha questa mossa tipica da Umarel, un nuovo mondo, e dico: ecco, il nostro piccolo Umarel ce l'abbiamo in casa, perché ha una sorellina più grande di 3 anni e assolutamente lei non aveva questi atteggiamenti, cose che invece riscontriamo in lui. Ed è molto divertente perché... È divertente. Masotti, sta avvenendo una mutazione genetica, cioè l'Umarel è riuscito a contaminare anche la progenie dei nipoti. Sì, sì, sì, no, ma questo è un fenomeno che capita molto spesso, perché i genitori vanno a lavorare e lasciano i bambini a casa con gli Umarels, quindi i bambini apprendono... Sumarellizzano in fasce praticamente. Sì. E poi nel mio blog mi arrivano anche molte foto, appunto, come dice la signora, di bambini in posture: guarda mio figlio in posture Umarelli. Perché guarda il nonno Umarel che lo porta ai giardinetti con altri Umarel, esatto, e quindi sumarellizza. Sì, sì, proprio questo. Maria, buongiorno. Buongiorno. Lei ha un problema in famiglia? Non lo so, forse. No, sia sincera. Secondo no, lo me... dica senza paura, non c'è problema. Siamo qui proprio per vuotare il sacco dei nostri pesi. Secondo me mio marito un pochino ci è. Ci sta diventando. Sì, perché comunque il modo di vestire, io gli sto sempre dietro, non ci riesco. Poi no, abbia coraggio, dica, è particolare. Allora, suo marito, cominciamo dalla biancheria intima, che è quella che meno si vede, l'Umarel maggiormente denota l'umarellaggine. Ah no, su quello poi se la fa preparare da me, perché sa che da solo combina pasticci. Ad esempio? Ad esempio mette la t-shirt di un colore, i boxer di un altro, cioè... Ah, cose... perché lei gli fa anche coordinatini? Certo. Perché mette la maglietta della salute comunque? Non proprio della salute, però insomma sì, ha sempre bisogno della magliettina. C'è la maglietta sotto la camicia, che già quello è una condanna. Quello, poi certe volte pretende anche di metterla sotto quella di lino. Sotto la camicia di lino la maglietta. Mette la t-shirt, sinceramente. Lei la chiama t-shirt per dargli una ripulita, ma una magliettaccia sotto la camicia, che già quella fa senso. Suo marito mette pigiama? No. La sera va a letto in nudo? Sì. Beh, questo già questo è un punto di vantaggio, però. Nudino, non proprio nudo. Cioè? Che vuol dire nudino? T-shirt e boxer. Allora vedi, allora, è come fosse un... la stessa maglietta, le stesse mutande che metto durante il giorno, se le porta a letto. Bravo. E beh, è una cosa schifosa da Umarell, questo. Andiamo avanti, calzini. Calzini... No, su quelli, vabbè, blu, neri. Su quelli, vabbè. La scarpa da tennis... peggio possibile. Improbabile. La scarpa da tennis con calzino blu, perfetto. Sì. Poi, pantalone. Pantalone marroncino, beigiolino, jeans sdrucchitino. Scusi se sono brutale, ma serve questo per dare al professor Masotti. Frequenza del debito coniugale. Frequenza del debito coniugale. Come sarebbe del debito coniugale? Signora, ha capito. L'Umarell è, diciamo, falso dovere da marito nella maniera giusta. Diciamola tutta, su. Vabbè, abbiamo capito. Danilo, cosa dici di questa signora? Faccia proprio su Marel, cioè, se mi può mandare delle fotografie, le mettiamo sul blog. Quanto ha di tempo utile per poter, diciamo, provare a rimediare? Taci. Quindi... Ah, dice a me, anzi, sì, a me, no, sì. No, irrimediabile. Già il fatto stesso che vada a dormire con la stessa maglietta. Sì, no, poi hai sentito anche i colori, tutto quanto. Pedalino blu e scarpa da ginnastica. Non al pigiama, poteva essere non umarellico, però poi ha... Sì, mette la stessa maglietta che ha tenuto addosso tutto il giorno. No, infatti dopo ha vuotato il sacco la signora, quindi... Poverina, è già condannata a avere un umarell, non c'è speranza. Grazie Danilo Masomasotti, grazie a tutti coloro che hanno avuto il coraggio di denunciare un problema che, ahimè, ci toccherà molti fra breve, soprattutto a chi parla a questo microfono. Ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111.